vengono a casa tua, froscio, drogato. Pupu, mi saluto di Grecia. Male sono. Deve essere quello di mio botte, vuoi un'altra. Porco. Domani vedrai come mi diverto io. Il numero di questo paraculo. Continua anche stanotte. Domani già mi diverto io, stronzo. Come crepa. Le schiappe qua a bagazzone tua madre. Ricordi quando ti faccio le giocchette a te, eh? Non fatti schiettare a prendere, vedrai, stronzo. Madre crepa. Non fa venire. Di nuovo, quel bagazzone di tuo padre. Quella bagazzone tua! Sempre veramente io a portante, brutto froscio. E nel sveglio quella bagazza mamma tua, hai capito? Così vediamo se ti toglie il baracchino froscionato. Sentare a te e all'amico tuo capito? Ma continua proprio, continua. Che poi mi diverto io, non preoccupa. Non preoccupa, continua a mettere musica, continua. Già ne parli domani, non preoccupa. Stanotte già ne sveglio tua madre, coglione, capito? E lo dico a tutta la frequenza il tuo numero, bastardo froscio. Froscio! Ho capito che c'è il numero tuo, 243364, eh? Coglione froscionato, drogato. Vai, che stanotte mi diverto io, non preoccupa. 3364 ti squilla, capito? Froscio. Non siete mai nuova a dire fesserie, idea. Telefono, c'è telefono sotto controllo. Passi casini, tu e automan, capito? Froscio. Dimmi, tu domani già lo attacchi, telefono, vedrai come mi diverto a fare schiattare a te la tua madre, non preoccupa. Allora di pranzo, capito? Froscio. E ne sveglio quella grande bagaglia mamma tua. Prova a attaccare il telefono stanotte, prova che ti squilla notte e giorno 243364. Dalla quella grande bagaglia mamma tua, quella grande bagaglia mamma tua. Questa notte mi diverto io, non truppa. Trattamento io bene per telefono, non truppa. Questa notte ti piombo di telefonate, brutto froscio. 24, 33, 64. Hai capito che ne sveglio con la bagassa ma tua. Continua, che stanotte già mi diverto io, non truppa. Chi è? Sei Danilo Sanna, chi vuoi che sia, quel froscio roba in culo. Bravo Danilo. Cazzo di telefono perché stanotte è più un po' di telefonata a casa tua, capito? Froscio.